Attenzione, attenzione, punto rumazzo. Canale 10, punto rumazzo. Canale 10, cambio. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Hola. Diciamo che non sta disturbando, il televisore si disturba da solo, causa impianto fatiscente. Io ero in campagna già, siamo tornati da un quarto d'ora, abbiamo mangiato là, è che fa buio presto adesso, non fa trattenersi, capito? Fa buio troppo presto. E tua mamma come sta? Meglio? Oddio, lei non si sente male, però c'è questa cosa da risolvere. Diciamo a livello del sangue, capito? Una carenza, potremmo dire, ecco. Cos'è, anemica? No, un po' di piastrine carenti, sono crollate le piastrine, non capiamo il perché. C'è questo ho capito, aspetta, vedo il segnale, ma vedo l'icona della spegolore. Ecco qua, meglio. Va bene, non andava bene anche poco fa, non è che te lo volevo solo dire, magari non ti racconto di Alberto. No, stavo provando se funzionava tutto. Pensa che mi ero portato il baracchino in macchina per vedere se da Bancali, da quel punto che è in un fosso, proprio in un fosso, arrivava a Sassari, però non c'era un'anima, tutta la sera non c'era un'anima, su 10, niente, solo propagazione sentiva, americani che arrivavano, non ti dico come, però voglia a chiamare o a fare bip, nulla, non c'era un'anima. Sì, non c'è più nulla, mi sono pentito di averlo messo in macchina io, l'impianto, di averlo fatto, anche pagato per farlo, perché l'ho fatto fare da un professionista, e l'ho pagato per farlo, ma me ne sono pentito amaramente, perché sì che c'è gente, tanto quanto, e mi diverto, ma ne esco in macchina e parlo, magari me ne vado al quadrato e mi fermo, anche se non posso guidare tanto, mi torno al quadrato e mi faccio una chiacchierata, capito? Però così non c'è mai gente, non c'è mai nessuno, boh. Mi ricordo che avevi detto che in macchina non lo mettevi più, succede sempre così già, quando lo piazzi in macchina magari prendi antenne, basi magnetiche, passi cavi eccetera, poi non entra più nessuno, vabbè capi, d'altronde già la gente ha altre priorità, ben poco stanno entrando, chi lavora, chi ha la famiglia, quindi insomma il paracchino è l'ultima cosa, il fanalino di coda diciamo come hobby. Ma io non lo metto in dubbio che ci siano, ognuno ha i suoi problemi, cose familiari eccetera, ma se lo facevi prima lo puoi fare anche adesso, penso che sia così, no? Non è che sia cambiato molto, gli impegni ce li hanno tutti, io lo stesso ce li ho gli impegni, però liberato di quegli impegni lì mi piace rilassarmi 5 minuti, o mi accendo il paracchino o mi metto a cantare, due sono le cose, partecipo a questi contest che fanno, i canti, e mi diverto lo stesso, però il baracchino a me mi è sempre piaciuto, Marco, io ho la passione da tanti anni, non è una cosa che posso mollare così, il fatto che ti stanno portando a farlo, perché se non è tra gente cosa te lo tiene a fare? Ma sai, tutti pensano la stessa cosa, tipo ho acceso, ho chiamato, nessuno rispondeva, oppure chiami Molti sono alla merda, chiami e non risponde nessuno, però pochi istanti dopo, minuto dopo, vedi 10.000 pigiate di PPP, capito? Quindi ce n'è gente all'ascolto, ma non lo so, un po' gruppetti è così, capito? Non hanno più stimolo di entrare, secondo me non è gente che ha proprio la passione, ce l'aveva così e basta, perché non ha lo stimolo di entrare, non ha voglia. Io guarda, sono messo male, mi sono addolori furti, però lo accendo sempre, mi distrago 5 minuti, mi piace distrarmi una mezz'oretta, un'ora, mi distrago lo stesso, parlo con i dolori furti, ma cerco sempre di alleviare le cose, capito? Tanto se gridi non ottieni nulla, non è che ti passa, quindi è meglio stare tranquillo, cercare di rilassarsi sempre per esaurimento. Sì, ho già notato che hai nella trasmissione un rumore di fondo che sembra alternata, ma è strano, non hai condizionato le pompe di calore accese, qualcosa che simula un'alternata, ma non è proprio un'alternata classica, è una cosa, boh, te la devo rifar sentire, non so come spiegare. È la ventola dell'alimentatore. Sì, può darsi, si sente abbastanza, via. Vabbè, mi dispiace per Natalino, cioè non lo puoi mettere in croce così, non è lui, pensa che questo vedeva male la TV tutta la sera, da quando l'ha accesa si parlava di pranzo, e Natalino non modula tutto il giorno, non lo capiscono, è come parlare con... vabbè. Sì, lo so, ma loro attribuiscono sempre a chi ha l'antenna, capito? A me mi dicevano, sai che cosa, se quando lì non si aveva messo l'antenna si vedeva bene, adesso quando c'è l'antenna sua si vede male. Perché? E poi era l'antenna che era in pratica, è scesa con me, hanno mandato un tecnico per fare un controllo, sono tutti in casa, l'ho colomologato e l'ho fatto vedere con 4 5, 4 watt, cioè non è possibile che devi stupire con 4 watt. Aspetti che saliamo su, sale su una scala, tocca la tela del paradurubì. Sì, lo so, però quello che a me non piace anche è quando magari qualche signore chiama il tecnico per mettere a posto l'antenna o per lamentarsi che vede male, il tecnico cosa fa? Vede l'antenna del baracchino in vicinanza e dice direttamente, ah no, è il baracchino che disturba. Sì, sono buono anch'io a fare così, a essere tecnico così, dare le colpe sempre alle ricetrasmittenti, no? Non va bene, no? E prima addirittura l'ascensorista ha detto, guardi che lei ha messo l'antenna in un punto che non va bene, perché? Perché potrebbe praticamente rovinare la centralina dell'ascensore. La centralina dell'ascensore? Roba, sarà roba di fantascienza, non lo so, racconti di Urania, non lo so. Sì, ma ce l'ho quasi 20 anni, no? Non ha mai disturbato niente, non ha certo dire, sì va bene, adesso vediamo, questo è un tecnico dell'ascensore. Ma io l'unica cosa che temo sono i fulmini, è una cosa patologica. Quella notte, e poi noi siamo circondati adesso di metallo perché c'è tutto il ponteggio del 110%, no? Tutto metallo, e vabbè che noi siamo dovremmo essere autoprotetti perché ci sono nelle immediate vicinanze palazzi ben più alti del nostro, quindi si spera in via preferenziale che, ma vedo che comunque quando conti dal lampo al botto sono sempre fuori città, diciamo, non proprio nel mezzo della città, cadono dove c'è il terreno, il suolo normale, dai. Almeno si spera sia così, tranne qualche eccezione, come è capitato anche a Sassari. Vabbè, mamma mia, una cosa che temo più di tutte i lampi. Non sono cose, praticamente solitamente cadono dove ci sono alberi, fanno danni nelle campagne, questi qua, dove ci sono alberi bisogna stare attenti perché li attivano. E purtroppo se si è scalognato, ci sono stati diverse persone che hanno subito dei danni. Poi avevo visto foto su internet allucinanti di fulmini caduti direttamente su villette, stress sull'impianto elettrico, allora dove passavano i cavi vedevi i muri esplosi, cioè il muro spaccato e allargato di mezzo metro. C'è una cosa mai vista? Se ti apriva i muri in due, proprio la semi distrutta la villetta, per carità di Dio. Infatti in campagna mia zia c'è il terrore quando ci sono fulmini. Poi lei aveva questi alberi alti, tipo il pino, vabbè il pino l'ha buttato giù, anche se mi sembra una cosa contro natura, perché era un pino meraviglioso, però era molto alto, produceva una quantità di aghi, di pino, di pigne impressionanti, sempre pulendo, nonostante non è per quello, ma le radici stavano spaccando tutto il coso dove parcheggia in cemento e stavano anche minacciando le radici la casa, si stava cominciando a inclinare qualcosa poco prima della casa, anzi proprio non il cemento era spaccato dalle radici, il cemento del parcheggio, volevo chiamare, come lo vuoi chiamare, del cortiletto, e quindi a Maragana l'ha dovuto buttare giù. E lo so perché mia sorella al mare ci aveva un pino che praticamente stava andando contro il tetto della casa, lo stava proprio pressando, l'ha dovuto far tagliare per quel motivo lì, ma per gli aghi aveva sempre terrore perché doveva stare sempre pulendo, facendo, doveva chiamare il giardiniere, pagare un sacco di soldi ogni volta perché si riempiva tutto di aghi di pino. Sì, infatti lei poi non è più giovane e si è stancata anche di starci dietro a queste cose. Peccato perché era meraviglioso, in estate ti faceva un'ombra, però vabbè, si è tolto, ci abbiamo fatto anche l'abitudine a non vederlo più. Chissà da quanto tempo c'era quel pino, mi sembra una cosa contro natura, capito, tagliare gli alberi. Vabbè, lì però ci sarebbe passata la casa, capito? Se le radici cominciano a spaccare muri, a fare danno, no, non va più bene, ecco. Marco, per colpa dei pini c'è gente che praticamente è morta con la moto, perché praticamente le radici rialzano l'asfalto e anche a Platamona un tipo con la moto ha saltato e è uscito fuori strada e è morto. Questa sfera dei pini, infatti i pini in città non si possono più piantare, è vietato, perché fanno questi danni qua. Ho già, io sento un'alternata piuttosto marcata, a meno che non dipenda da me. C'è qualcuno sul canale che può confermare o smentire, se la sentono anche altri? Allora, cosa deve sentire qualcuno? Buonasera a tutti, ho sentito a te Marco, cosa è successo? Ciao Robert, ben entrato. Io sento una forte alternata su Gianni. Non vorrei che fosse qualche massa qua partita nella ricezione del baracchino. E conferma se c'è alternata Gianni, perché sta aumentando rispetto a prima. Guarda Robert, a vedere. Sì, sì, molto forte, quasi ti copre la modulazione, confermo. Ciao Gianni, ben sentito. E ciao Marco. Ciao Robè. Io avevo provato il baracchino in campagna lì, volevo provare a vedere se arrivava a Sassari, perché è proprio in un buco, in un fosso, però non c'era un'anima, capito? Perché lì siamo andati presto con la luce e non c'era nessuno a Sassari, peccato. Stavamo valutando se mettere un'antenna lì, per usi futuri, emergenze, guerre. In campagna dove? In che zona? Bancali. Non lo so, te l'hai provato. Stamattina io ho acceso un attimino, non c'era neanche nessuno, ho fatto un paio di chiamate e basta, poi sono andato in altre balle. Ok, vediamo Gianni se ha risolto, ma il problema è Gianni, è l'alimentatore o che cos'è? Non ce l'ha messo, non ne ha mai fatto, guarda adesso se sta facendo alternato. E allora c'è anche una specie di fischietto sotto. No, già, premi senza modulare. Sembra già un frigorifero quando ti metti a appoggiare, non è che è un motore di un frigorifero, è identico a un motore di frigorifero, forte però. Sì, magari il microfono, prova a toccare i cavetti così, lo spinotto, ogni tanto. Era capitato anche col 3009 una volta, lo spinotto un po' c'era polvere e allora l'ho durato una scucciolata di cerici secco lì, prima l'ho soffiato con l'aria, poi il cerici secco l'ha pulito. KK. Ma che radio è che sta utilizzando? Un base o un veicolare. Oddio, me l'ha detto ieri, già, non me lo ricordo già. Che cos'è? Il Cobra! Già, allora è l'alimentatore probabilmente, non credo che sia la radio. L'alimentatore, aspetta un attimino che compro. Fortissimo, sta aumentando già. Ma ti stai aiutando con qualcosa, così? Aspetta che gli do un'occhiata. No, perché prima c'era, ma era diversa, era un'alternata strana, modulata un po' diversa. Poi però ha cominciato a aumentare fino a essere così forte, ho detto ma non sarà, perché il baracchino qua era fermo, cioè io ci ho tutto buttato negli armadi, mi robe, i baracchini che non usa da mesi, perché tanto non, la passione è scaduta, mi giusto il Gianni ha chiamato, era acceso, ho risposto. E dicevo, io non ero nel pomeriggio in campagna, robe, ma nel pomeriggio sono tutti un po' chi ci fa la slippatina del dopo pranzo, eccetera, capito? Non c'era nessuno. Compenso arrivavano gli americani in manda laterale o in AM che era una bomba. Scusate un attimo, adesso guardate un attimino. Già peggio che mai, a parte che è alzato anche il livello troppo alto, più forte di prima è il problema. Premi già, premi la porta temuta. Male, adesso lo senti, mi te lo mando. Ah, che c'è il microfono già invece, anziché l'alimentazione. Controlla o che sia troppo basso l'alimentatore, perché molte volte vai, tu lo metti senza accorgerti, ti si abbassa la tensione, tu magari sei convinto sta andando a quella nominale. Prova a verificare anche la tensione. Ecco. E io, dimmi tutto. L'altro giorno, un paio di giorni fa, invece c'erano gli americani che arrivavano a bomba, la messa in americano, un'ora con questa cosa, ho detto prima. Non riuscivo a capire, ma qua stanno parlando di roba di messa, perché ogni tanto si sentiva church in inglese, ho detto, ma questa è la predica della messa, e poi si sentiva il predicatore, allora mi ha sentito dagli Stati Uniti l'accoso, era proprio americano, non era inglese, perché poi c'era anche l'attestazione, la propagazione, e arrivava a 9, ma ci sono rimasto a bocca aperta, in AM. No, la messa mi era nuova, eh. Io di solito sentivo, come oggi, i grandi modulatori sul 6, sull'11 e poi vabbè i DX in LSB sul 30 mi pare e sul 36 sentiti anche stasera un DX in lingua inglese eccetera. L'altro giorno ho fatto il collegamento con questo spagnolo di una sezione spagnola di aspetta come si chiamava B1RCP di spagnoli io con questa radio che sto utilizzando sempre normalmente arrivavano molto bene 9 più 10 uno e l'altro arrivava quasi 9 abbiamo fatto una bella chiacchierata ci siamo fatti ed erano di Barcellona questi qui perché adesso sta prendendo piede però eravamo in AM non mi ricordo se era il canale 37 o 30 qualcosa del genere. Sta prendendo piega questo discorso dei nominativi, io sono 165, Whisky Mike 105, quelli di quei club di Massana, dove c'è anche, mi sembra che ci sia Natalino e Claudio Di Muro, insomma l'ha fatto fare, non so se sei iscritto anche tu. Guarda così Marco, prova a parlare già. Guarda, avevo messo un altro microfono, vediamo un po' come va. Adesso va bene già, però abbassa un po' la radio. No, aspetta, metti la porta temuta però. Ok, si sente il soffio dell'ambiente, i rumori ambienti, dai basta. Hai visto, l'hai sentito com'era prima? All'ultimo ho fatto aspetta, abbassa un po' Gianni, sei troppo alto. Guarda, così bene va, così al minimo. E abbassa ancora un po' Gadetto, io sto facendo il confronto con Marco. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Così è perfetto, non toccare va benissimo, se no si sentiva tutto il rumore degli isolati che c'è vicino. Questo Marco è il microfono che abbiamo ordinato insieme. Ah, il come si chiama? Aspetta, ricordami il nome. Io ce l'ho buttato in qualche cassetto. Sì, funziona, però è inutile il preamplificato. No, so, mi piace il mic normale, non rischi di essere troppo forte, di sentire il abulotto di casa e tutto. È più forte di me. Questo è il KPO. Esatto, KPO 532, mi pare NM o MN 532. Comunque va benino. Va bene soprattutto sugli apparecchi che escono già cristallini di modulazione. Tipo il 3009 ovviamente. Per rispondere a Roberto, sì Roberto, ho sentito che ogni tanto ne parlate sul 10, io lascio il volume basso, che siete molto attivi con Claudio Chiodoro Ginito come DX. Vedi, voi avete voglia di fare, di cose, io non ho più pazienza di niente, poi come mai così un po'. Cioè, di fare una cosa e di fare un'altra. È passata tutta la fantasia, riprendilo bene. No, vabbè, io è la prima volta che faccio un collegamento con quel sistema lì dando il numero attivo, almeno il 27. Me l'ho fatto Claudio che ha fatto i complimenti tante volte. Lui mezzo mondo sta collegando, ha fatto la città del Val d'Itano, che è la cosa più rara possibile immaginabile. Non so quanta gente ci possa essere di CB in Vaticano, però è una di amatore, perché dalla descrizione sembrava quello che ho cercato di parlare io, perché il Vaticano è uno dei posti più ambiti, parliamo nel Mediterraneo, probabilmente è il più ambito. È come che tu collegi un'isola sperduta del Pacifico, cioè mi sembra un unico radioamatore che parla ogni tanto. E lui l'ha riuscito a collegarlo, stranamente. Sì, allora, proprio quel giorno ho sentito qualcosina, riguardava il Vaticano e anche di questo paese irraggiungibile, perché praticamente non mi ricordo se era in Africa o, come hai detto tu, nel Pacifico, o comunque insomma una zona remota, per cui è rarissimo contattarlo, c'erano ben pochi. Sì, era la Namibia, io ho provato a farla, però c'era tutto il mondo che stava chiamando, perché sono quei posti sperduti. Vabbè, non è sperduta la Namibia, però è un paese cosiddetto del terzo mondo, dove, per dire, il tenore di vita è molto, sono paesi poveri, e per cui chi cavolo ci può essere per fare? Magari c'è qualcuno che ha fatto qualche spedizione e lì si ha portato la radio e l'antenna, però è molto ambita anche la Namibia, naturalmente poi ci sono tutte le isole del Pacifico, australiane, eccetera, però nel continente africano non è semplice farlo quel posto, e lui l'ha fatto, ne ha fatto anche altri, vabbè, per lui la Russia era una novità, la Russia l'ho fatta anche io nel 27, e ha fatto il Canada, vabbè, l'avevo fatto anche io, i paesi nordici, l'altro giorno l'ho fatto io, che non è semplice, l'isola di Capo Verde, però ho fatto su Mandelare Amatoriale, l'isola di Man, non so se l'avete mai sentita nominare, l'isola di Man, dove facevano il circuito famosissimo, che sono morte centinaia, per non dire migliaia di persone, che fanno le gare, c'è un circuito cittadino, pensa 10-15 km che si ammazzano, ogni tanto se ne ammazza uno. Avanti Gianni, a te. Sto continuando col microfono, dai, continuate, già vi ascolto. E tu Marco, che radio stai utilizzando? Da soli, cos'è? 3009? Allora no Robè, adesso io sto usando da parecchio, l'ho lasciato come baracchino omologato fisso, uno schifosissimo che però vabbè funziona bene, niente di che. President, il nome dov'è? Aspetta, President. Aspetta un attimo, forse l'hanno messo sopra, manco mi ricordo come si chiama, tipo, ah ecco, Taylor, presidente Taylor IV, piccolo, da barra mobile, controlli essenziali, MFM, vabbè, autoascolto, Roger Beep, c'è anche la presa USB frontale, che non userò mai. Allora, io ti voglio fare i complimenti perché stai uscendo una grande modulazione impeccabile, perfetta, una telefonata, nessun disturbo né di sottofondo e né come tonalità, proprio bellissima come piace a me, tipo telegiornale, chiara e pulita, complimenti per la modulazione, una delle migliori in assoluto. Ok, l'altro giorno ero in Piazza d'Italia, domenica scorsa, e lo fanno tutte le ultime del mese, tutta la settimana del mese, fanno il mercatino vintage, diciamo, dell'antiquariato, e c'era un tipo che vado ogni tanto porta un po' di roba, e c'era un baracchino, un Intec vecchio, anni 80, anni 70, gli ho detto quanto ne vuoi? 10 euro, gli ho detto ma funziona? Boh, non lo so, l'ho provato e funziona perfettamente. Quali sono le... i colpi di culo, come dire, le occasioni da prendere al volo. Ah, quindi ogni tanto qualche balacchino spunta dalle cantine, così, non sapevo neanche se funzionava. Buono, è roba che prima o poi torna utile. Ma col microfono suo originale della Inter, che è nuovissimo, come anche come è stato d'uso, era nuovo, deve essere, l'hanno utilizzato poco, piccolino, tipo un 48, però come concezione più vecchio, 40 canali, e funziona benissimo, diciamo, non è che mi sia messo a modulare, però l'ho acceso, funzionano tutte le funzioni e basta. E gli mancava il cavo di alimentazione, ma è uguale a quello del corso, della LAN 48, infatti l'ho provato un attimino e diceva se funziona, e andava perfettamente, riceveva anche bene relativamente al tipo di apparato, per cui 10 euro cosa vuoi di più, nemmeno una pizza adesso ti mangi con 10 euro. Ok, vediamo se Gianni ha recuperato la situazione trasmissiva. Avanti Gianni. No, vai, lo devo montare. Continua. Brecco. Mirami con me. Oggi. Ecco, avanti Eugenio e poi il brecco. Ciao a tutti, buonasera. Allora, foto, vi ho sentito, ci sentiamo, ciao. Facciamo entrare il brecco, avanti il brecco. Capo, buonasera a tutti, Massimiliano Bulldozer. Ciao Massimiliano, anche a te, da tanto che non si sente. Per complimenti per la modulazione, stai arrivando sia ottimo segnale che ottima radio, fortissimo. Saluto al carissimo Eugenio da Porto Torres e lo rilancio. Vai Massimiliano, scusa Massimiliano, è Eugenio. Ciao Bulldozer, ben sentito. Eugenio, ciao Roberto. Ciao Marco e poi, poi chi c'è ancora? C'è Gianni che stava battagliando con un microfono, gli stava dando dei problemi, ma adesso la sostituto stava funzionando bene, ha detto a proseguire. Ok, chi riprende? Vai Marco a te il mic. Sì, riprendo per i saluti, ciao Eugenio, e ti sento dopo tanto, e Massimiliano lo stesso. Io ben poco sto entrando. Torra non posso stare in pianta stabile, K. Allora, per il microfono, questo è il mic originale, a capsula piezoelettrica, però mi dicevano in regia che comunque il 3... Perfetta, nessuna naturalissima, pulita, non c'è troppi alti, né troppi acuti, né troppi ma, va bene, come piace a me. Ok, facciamo riprendere il lontanissimo Eugenio da Porto Torres. Vai Eugenio. Vado bene. Allora, che si dice? Siamo un po' senza sentirci. Che si dice? Buona domenica. Che si dice che è tornato freddo? No, vabbè, dai, oggi è una bella giornata. Ieri si è sentita una differenza di temperatura. Domenica scorsa era a Cosa, Trentino, era Maria Coso, luglio, pieno di gente, proprio pieno di gente. Oggi temperatura gradevole, però la sera inizia a far freschetto. Ok, vai Massimiliano, il mic. Positivo, sì, vabbè, ieri c'era un po' di freschetto, ma oggi stava bene. Dai, rilancio il mic a Gianni, non so che se Gianni ruba un fetto, Gianni doppio rubo. Gianni? Gianni, tutto a fischi, non si capisce niente. Adesso è diventato spaziale proprio. No, Roma, io sto usando un 14 col Tarne più 3. La scena è grande, ma è forte, bella, potente. Infatti me lo immaginavo fosse qualcosa del genere. Ho detto, magari il microfono non era il suo naturale, però la modulazione è bella piena, corposa e potente. Positivo, va. Tra la radio e il microfono abbiamo messo un pedale di chitarra. A pedale sei andato? Sì, col pedale, sì. Allora io me lo devo mettere su due radio, proprio il pedale, ho già le girate già pronte, e tu stai utilizzando l'attacco posteriore, quello a CC2, quello lì stai utilizzando. No, aspetta, non è la portante a pedale. E che cosa? No, c'è un pedale per le regolazioni dei microfoni, capito? Ah, scusa, ho capito male allora. Ma perché mi devo mettere il comando a pedale? Perché qua davanti ci sono molte radio, perché ci sono tre microfoni uno a fianco all'altro, e mi dà fastidio in mezzo ai bisi. Infatti ho messo già due giraffe, così mi metto il comando a pedale e non mi rompo le scatole di schiacciare il tasti e coso. Mi stai attento al pedale che schiacci, se no ti scappa la marcia e ti chiude al muro. No, fate gli scherzi, è più comodo. Adesso guardando la partita del sottofondo, Mourinho è espulso, fuori a carrera. No, il giocatore no. Comunque la Roma, se interessa a qualcuno, sta prendendo 1-0 con la Lazio. Avanti a chi tocca, Gianni, vediamo se è risolto. Beh, forse c'è qualcuno che voleva entrare sotto di te. Avanti, chi vuole entrare? Boh, non lo so, forse sta provando ancora Gianni. Avanti, Eugenio. Gianni ti scivolato. Ma Eugenio, sta rilanciata, avete parlato in due con Massimiliano. Stavo cantando una canzoncina a Gianni, doppio rumo, che mi scivolato un cacciavite dentro il microfono. Oh, va bene, dai. Com'è? Tutto a posto, va bene? Sì, già va bene, dai, non ci lamentiamo, dai. Possiamo andare meglio, ma si può andare pure molto peggio, dai, vediamo un po' che queste situazioni migliorino nel lavoro, diciamo, si sta riprendendo, speriamo bene. Per il resto, e tu sempre in quella zona di Coso, la sala di Urbia, di lì sei? Sì, io sempre lì, sì, da un altro annetto e penso che siamo al 99%, va. Ma il pezzo di Ardar, a che punto è quel pezzo tutto con la struttura, per dire, che rallenta tutto il passaggio fino ad arrivare a Coso, Mesurio, tutta quella zona lì? No, fino ad arrivare a Mesurio c'è tutto aperto, a quattro corsie. Prima del bar di Meserios, adesso non so se questa settimana che viene, mi sembra l'8 o il 9 dovrebbero aprire. aprire altri 4 km di rettilineo. Speriamo bene, che non la finiscono più quella strada, è una vergogna, tanti anni so travagliente. Hanno fatto il pezzo più brutto, quello di Berchita, che lì è tutto granito, infatti chissà quanto ci staranno, invece i pezzi più semplici dove il terreno è abbastanza favorevole, sono lenti. Cosa vorremmo? Ma per questa estate ce la fanno a finirla? No, negativo. No, vabbè, non è così come dici tu, ma ti sembra terreni più facili, ma non è così. Perché noi l'abbiamo fatta quasi tutta lunga la strada. E sono 100 km di strada, non è che li fai in pochi anni, capito? Nei terreni duri lavori meglio. Ma cacchio, quando c'è il terreno duro, tipo quel pezzo di cosa, poi devi fare il viadotto, punti e cose e cose, tutte queste cose, vai, il pezzo di andare è tutto spianato, tiri e vai. Tiri e vai, ma non è proprio così, tiri e vai. Il pezzo di andare è una palude. Quindi ci sono materiali appositi da mettere, cedolo, un po' casinotto, là, quella zona lì. Poi ci sono altri problemi di archeologia lì, capito, quindi hanno bloccato un bel po' per quello. Ah, vediamo se Gianni ha sistemato. Gianni, ci sei? Scusate, dietro tra un po', scusate. Registrato il break, un attimo Claudio, vediamo Gianni se ha sistemato. No, non ho sistemato niente, dai, l'ho lasciato tutto così e lo controllo domani tranquillamente. Adesso va bene, sì. Adesso sei perfetto, va benissimo. C'è anche Muros, avanti Claudio di Muros. Vediamo adesso chi tocca. Marco, Marco, Eugenio si è allontanato, vai Massimiliano. Saluto a Chiodo Ruginoso, che è entrato adesso, risaluto a Gianni che non l'avevo ancora sentito. Eugenio e tutta Marco, a te Roberto e non so ancora chi c'è in zona limitrofe. Ci sentiamo, buona serata e buon tutto. Vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao Massimiliano, ciao, grazie per i saluti. Buona carica quando la fai. Avanti Eugenio e ciao anche Eugenio. Riprendi Roberto. Eugenio si è allontanato un attimino. Ciao Massimiliano, ben sentito. Quando capita sempre un piacere ascoltarti, dai, purtroppo non è che ci sono spesso qua. Vediamo Claudio Di Muro, a te Mike. Io qua c'avevo un problema al microfono, riuscivo a parlare, adesso non so cosa sia, ho provato a cambiare batteria, tutto quanto, ho messo anche lo spray per contatti e niente da fare, non capisco cosa possa essere, vabbè, forse sono i cursori, non lo so, adesso domani lo controllo. Vediamo se Eugenio è rientrato. Avanti Eugenio, se ci serve un colpo. Vabbè, ho ripreso io un attimino, ero al telefono. Allora, ciao a chi è entrato, Claudio Chiodo Arginito, ben sentito, 5-9 il segnale, ottima comprensibilità. Ciao anche a Massimiliano che ha chiuso, da buon proseguimento di serata. Rilancio Chiodo Arginito, la Murs, avanti, buonasera. Sto utilizzando il normale watt dell'apparato, che non sono neanche 4 a dirla tutta, e sono tipo 3,5 modulati, e proprio li fanno ai minimi termini questi omologati moderni di adesso, questi tutti SMD. E in più c'ho quel famoso filtro anti-TVI che io metto per scrupolo, per evitare problematiche, e quindi mi ruba ulteriore potenza, più 50 metri di cavo, insomma ho fatto i calcoli e se va bene perdo un terzo dei watt, un terzo della potenza, quindi in antenna ne arriva ben poco, ci avrò sia non 1,5 watt, massimo 2 se va bene in antenna, e fatti il conto. E poi questo macchinetto ha lo smitter secco, sai perché? Allora c'è scritto sul manuale di istruzioni, il Santiago 9 è tarato a 100 microvolt, anziché essere tarato a 50 come tutti gli altri baracchini, quindi è un po' secco, quindi col 3009 sicuramente arriveresti 9 anche tu. Gianni, riprendi tu, Gianni il caldo. Cappa, riprendo, sono da Farato, Marco, sto sempre guardando questo cavolo del microfono che mi gira le scatole che non funziona, sono in paranoia. Dai, lo controllo e poi vi ascolto che sono qua. Ho detto Gianni il caldo e non mi veniva doppio rum, non mi veniva, allora ho detto Gianni il caldo. Vai Roberto. Chi lo chiamava Gianni il caldo? Chi te lo diceva già? Non me lo metto. Boh, quando facevo colleco ecco a voi eccetera eccetera, dicevano Gianni il caldo, la voce calda della frequenza, non me lo ricordo che me lo dice. Ah, vediamo se Eugenio è rientrato, se no riprende Claudio Di Muro. Eugenio, ci sei? Nulla. Come sono? Comunque a te ti ascolto 9.35, Marco, fortissimo il segnale, anche se sta uscendo con potenza limitata, sta andando il segnale enorme. Poche persone ti superano qua, quelli vicini, solo Carlo e cosa ti superano? L'altro come si chiama? È Antonello Pomponio. Per il resto superi a tutti, non ce n'è per nessuno. Ok, Muro, a te cosa? Le stavo dicendo, Claudio, che l'altro giorno ero in Piazza d'Italia, domenica scorsa c'era quel mercatino e c'era un tipo, ogni tanto che compro qualcosa, mi sono preso un baracchinetto piccolino della Inter, che è anni 80, nuovo, bello, funzionante, senza il cavetto d'alimentazione, ma identico a quello dell'Ala 48, col suo microfono originale, 10 euro me lo dà. Aspetta che te lo dico, non me lo ricordo neanche, un secondino, riprendi tu Marco. Io non bazzico mai al mercatino dell'usato, perché alla fine non sono amante magari di quelle cose, ma anche la roba elettronica, se d'epoca, è sempre un'incognita, però per 10 euro si può fare, capito? Tanto più che gli è andata bene, era perfettamente funzionante. E poi adesso vediamo che baracchino è, che cosa ci comunica Roberto. Allora, il baracchino si chiama M400, semplicissimo, non ha niente di particolare, è un po' più piccolino della 48, tutto nero, esteticamente non è brutto, si chiama M400 Intec, col suo microfono originale da palmo. No, è un semplice baracchino, non so neanche se c'ha l'FM, la M ce l'ha sicuro, ve l'ho vista, c'ha un paio di tastini molto limitato per uso per macchina, va bene perché è piccolino. No, tutto nero, non lo conoscevo, non l'avevo mai visto questo baracchino io. Scappa, sì, vabbè, lo riconosco. Allora, era proprio i modelli super base della Intec. Parliamo di prima metà anni 80, c'era l'M340, 34 canali solo M, c'era l'FM680, 34 canali AM/FM, quello è il primo 40 canali, credo. Il primo 40 canali, perché prima più del 20, del canale 23 non potevi andare, poi l'hanno ampliata a 40 canali la canalizzazione. Adesso vediamo se ha l'FM, aspetta, la foto l'ho già chiusa, vabbè. Sì, erano con quello microfono a saponetta che si innesta a pressione, sì. FM500S ne aveva 34. Si infila a pressione, ha detto bene, c'ha quei multipin, non è a vitatura. E ti dirò, vabbè, che quando metteva quel baracchino in macchina di nonno che guidava lui, ero piccolino, come tiravi poco a poco il mic, mi arrivava lo spinotto a faccia praticamente. Erano una rogna quei cosi, va bene se lo usi a casa vicino al tavolino, alla scrivania, ma quando poi in macchina lo tiri poco a poco è una seccatura. Sì, è vero, ma poi la spirale, il cavo spiralato è un bel grosso rispetto agli altri, rimane più grosso, l'ho notato anche io, ti arriva a faccia e ti fa tremare. Sono di nuovo qua, già. Ciao G, ben entrato. Allora, solo M, l'M400 era solo M, proprio c'è volume, square, scalari. E poi il CBPA, che questo PA, forse usavano quelli tipo, donne, è arrivato la rotina, quelle cose lì, dai. Vai, Eugenio. Continuate, io vi ascolto, vai, che sto facendo una placca luminosa e devo concentrarmi un attimo. Tranquilli, io già vi seguo. Oggi sta arrivando la bomboletta, 9 più 10, oggi sei meglio degli altri giorni, e oggi è forte anche con modulazione. Guarda, io sempre così sto uscendo, non è che tocco, faccio, non lo so, questa è la mia stazione, questi sono i miei watt, niente. Non tocco, non aumento, non diminuisco, sempre questo è il mio microfono, niente. Forse perché ce l'ho acceso tanto e ha scaldato bene. E va a riscaldarsi, stabilizza termicamente, dai, comunque già va bene. Ok, Muros è una scoppettata, arriva a 9 più 20, anche pure troppo forte del radio, per cui ti ricordi Claudio, all'inizio quando era un po' difficoltoso qualcuno non ti ascoltava, adesso sembri qua in città. Scusate un attimo. Muros, mi ascolti qua? Mi ascolti? Cosa ha detto? Io non riesco a capirlo. Tieni sempre inserito, quello è un preamplificatore dell'antenna, male non li fa, solo bene li fa l'audio. Sì, claro, adesso sei a due, ti segnale, riesco a tirarti fuori, buonasera. Buonasera. Però prima ti sentivo più forte, un po' tempo fa ti sentivo molto più forte, tu mi ascolti? No, non riesco a capirlo. Claudio, quel tastino è un preamplificatore dell'antenna, non c'ha niente a che vedere col microfono, ti aumenta il segnale ricevuto, hai capito? Ah, quello là c'è l'altro tasto, tu mi hai parlato quel tasto di sopra, quello che c'è in alto a sinistra, che si accende una lucetta, mi pare verde, se non sbaglio, o gialla. Gianni aveva risolto, se può riprendere, dai, così rimango in bianco. Gianni, hai risolto? No, ho risolto, no, ma posso riprendere, dai. Sì, va bene. Allora, vabbè, dai, proseguite voi, io stacco e rimango, credo, definitivamente all'ascolto per oggi. Ok, ha incrementato, sì. 9 più 45 sta arrivando. Vabbè, domanda ovvia, vabbè, nessuna saturazione, distorsioni, no? Come prima, perfetto, nessuna incertezza, va benissimo. E dopo voglio dire due parole a Claudio Di Muros, avanti tu Eugenio, che ascolti forse più di tutti di lì a Porto Torres, adesso Marco con questo segnale che ha aumentato più forte lo senti. Ma chi è Marco? È a Marco. Marco lì. Rispetto a poco fa, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, adesso Giorgia. Aspetta, guarda. Non ci arrivo in fondo, guarda. Nudo e vestito. Allora, da 5 si è passato a 9. Quando passi a 9 la radio Super 5 è bellissima. Sì, questa è una cosa che ho notato, Robè. Questo linearetto, ovviamente se pilotato in basso, quando lo attacchi ti aumenta anche la modulazione, anche a salsa di sinotta, ti esalta la modulazione, come se alzassi appena appena il volume, capito? Allora io non noto nessuna differenza, talmente ti ricevo forte, ti ripeto, ti ricevo 9.35 staccato, 9.45 attaccato, per cui non c'è nessuna differenza, a lunga distanza se ne accorgeranno sicuramente. E Eugenio, tu stai arrivando quasi 9.10, dammi un rapporto anche a me per curiosità. No, però beh, 9 pieno, poi vabbè, modulati sali un po', 9 pieno. Ok, Claudio Di Muros, allora, quell'interruttore che ti avevo fatto vedere la volta che ci siamo sentiti è un preamplificatore dell'antenna, tu tienilo sempre attivo, non spento, attivo, così i segnali deboli, tipo il caso di Eugenio o di qualunque altro segnale debole, te lo alza un pochettino di livello, per cui non lo escludo, mettilo in posizione attiva, adesso non so se con la luce verde risulta attivo o staccato, non me lo ricordo, però tienilo come che ti aumenti il segnale, è una posizione che aumenta il livello S di segnale, per dire, se adesso io sono 9, schiacci quello lì, attivi quello, dovrei salire a 9.10, non so che rapporto c'ho di segnale, vedi un po', tu lascialo sempre attivo, capito qua? Ho non riesco a farlo capire. C'è qualcuno che vuole entrare avanti? Marco è in ascolto. Allora devi lasciarlo, Claudio, scusate, monopolio, nella posizione in cui i segnali arrivano più alti. Se per dire, a me mi ascolti 9.20, attacchi quello, arrivano 9.25, lascialo in quella posizione. Tanto danno non te ne fa, ti dà solo un miglioramento. Naturalmente se c'hai un segnale a fianco a casa che ti arriva 9.60, non c'è bisogno di inserirlo. Lascialo sempre attaccato, non è un attenuatore, è un preamplificatore di segnale d'antenna ricevuto. L'attenuatore è un'altra cosa, capito? Ok, vediamo Eugenio, avanti a te. Scusa Rabbè, mi hai chiamato? Ti ho rilanciato. Che hanno suonato, vai. Ci sentiamo ragazzi, che hanno suonato, ci sta fuori, c'è gente. Ci sentiamo, mi ha fatto piacere sentirvi, che purtroppo può chiudere, c'è gente. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Eugenio, senti tanto a te, quando vuoi sarò a trovarmi, dai. Ok, vai Claudio De Muro per Eugenio per i saluti. E beh, chi è rimasto? Ciao Eugenio, buona serata, dai, ci sentiamo. Avanti Robè, dai. Come va questo microfono? È meglio o peggio dell'altro? L'altro già, quando ti ho sentito io eri tutto ronzì, fischi e rumori. Questo è potente, molto più forte, un po' aggressiva come modulazione perché è caricata di acuti, ma già va bene, niente da dire. No, ma io non ti stavo parlando di quando andava bene, non adesso che non va bene, perché tu stai esagerando. Vabbè, comunque mi sa che me ne ordino un altro di questo per il 2009 e lascio questo qua di qua, dai. Perché quello lì non so cosa l'ha abbigliato. E poi già, come faccio io? Tieniti un microfono, una volta hai trovato il giusto abbinamento, nella sua radio rilascia il suo microfono e poi non lo tocchi più. Sai che quello va bene e non lo tocchi più, inutile stare spostando, facendo. Tanto, una volta che hai trovato il top delle condizioni, diciamo, di trasmissione, e gli altri è inutile peggiorare. L'hai trovato giusto, lascia tutto così e non toccare niente. Sì, ma Robè, cerca di capirmi, questo l'ho dovuto togliere dal 2009, questo c'era sul 2009 e adesso ne dovrò comprare un altro. Quello che ti sto dicendo, questo va bene, se lo tieni qua al 2009 va bene, te ne compri un altro uguale anziché stare provando, rimettendo, lo lasci stare fisso, perché molte volte attaccando o staccando basta ci sia un mezzo connettore appena appena difettoso alla saldatura e sei ammaccanato il cervello, magari quello di prima non c'ha niente, c'ha soltanto una massa o qualcosa che magari fa contatto e no e ti va con il cervello per una fesseria, li lasci sempre attaccati e funzionano in eterno. Sì, ma infatti lo devo controllare con calma, domani mi metto, lo controllo, adesso mi perderei tutto il questione e mi dà fastidio, dai. Beato che c'è un po' di gente, vi voglio fare questo questione. Avanti Bugos. Ciao Claudio, ben sentito, quando vuoi siamo qua. Ciao ciao, saluto a tutti in casa. Vai Gianni. Ciao, Chiara Ruggilippo, ben sentito, ci ha fatto piacere il corto QSO che abbiamo fatto, ma va bene lo stesso, dai. Buona carica quando la fai, saluta mia mamma, ciao ciao. E Natalino, senti tu, sì. No, Natalino non può parlare, sta disturbando. Sta disturbando. Cioè sta disturbando, con l'apparecchio disturba il televisore. E questo da quando? Ieri sono andato. Ma cosa? Quelle persone erano a controllare? No, sono andato a protestare quello di su. Cioè, non è possibile. Pensavo avesse risolto lui. Ma non è che questo qua ci abbia problemi di cavo l'antenna tagliato, allagato, magari c'è un amplificatore dell'antenna che amplifica anche disturbi. C'era anche una frase che ha detto Lattalino. Anche a me succedeva all'inizio, tutti protestavano, poi hanno mandato il tecnico, ha controllato i watt con cui usciva, ha detto non è possibile che con 5 watt li disturbi. Salito su, ha toccato l'antenna e ha fatto subito un rapportino dicendo che l'antenna era tutta fradicia e che non si poteva pretendere di ricevere bene il televisore con quell'antenna lì con la scatola tutta aperta. E magari è così, perché magari molti tecnici, cosiddetti pseudotecnici di antennizzi, quando c'è il segnale basso non è che aumentano, verificano se i cavi sono efficienti, se l'antenna e la scatola dove ci sono le connessioni sono marce, eccetera. Quindi mettono un amplificatorino magari 30 dB e ti amplifica tutto quello che trova in giro. Basta magari mettere un'antenna efficiente, cavo buono e funziona senza niente. Il segnale è talmente forte dentro casa. Io ho un telefonino che avrò 15 anni, quando è uscito il digitale terrestre, forse quando è uscito adesso me lo ricordo, 10-15 anni fa, con un'antennina lunga 6-7 cm dentro casa, io funziona la televisione, agganciano i canali televisivi, figurati quanto è forte il segnale. Se a noi ci hanno detto, tecnico, che ma che bisogno ne avete voi dell'amplificatore quando ci avete Monteoro di fronte, questa antenna qua prenderebbe lo stesso bene senza amplificatore d'antenna. È normale già, ce l'abbiamo di fronte, Monteoro c'ha una copertura su tutta la città, naturalmente dai punti sono un po' sfavoriti, però arriva anche lì abbastanza bene, non c'è problema. Però su Sassari ce l'abbiamo a linea ottica, io lo vedo, mi faccio la finestra, lo vedo l'antenna di Monteoro, sono talmente furti, magari prima c'erano delle televisioni private che avevano apparati bassa potenza, magari avevi qualche difficoltà certe volte, ma adesso sono delle antenne, sono tutte televisioni di un certo livello, da videolina in su, c'è arrivare media eccetera, e usano potenze molto alte, le antenne sono migliorate perché sono più, come si chiama, da quando sono usciti i telefonini hanno migliorato anche la larghezza di banda dell'antenna, per cui lavora molto meglio l'antenna, è più selettiva, per cui i problemi ce li ha quello lì, secondo me, a casa nata lì. A questo punto l'abbiamo preso un'antenna, l'avrei piazzata, attaccata, senza dirgli niente, ha detto mi guarda qua. Infatti. Vabbè. Comunque adesso già va bene, dai. Va tutto bene. Vediamo se c'è qualcuno qua su 10 che vuole entrare, avanti, che vuole entrare sul canale 10, sicuramente c'è qualcuno, perché poco fa ho sentito una bella portantina, tum tum, però non ho capito chi era. Avanti, chi vuole entrare? 9-10-1, è Claudio Sparviero che ti ha fatto. Da mangiare. Ci sentiamo, ciao ciao. Non ho capito, ti ho parlato sopra già, cos'è? Mi sto andando via, ciao. Ehi, vabbè, dai, saluto anche a te, io passo su altre frequenze. Ciao Gianni, ben sentito, saluto anche eventuali amici qua SWL, a tutti quanti, buona serata, ciao ciao. Ti hanno chiamato la sera? No, niente ancora, un casino. Vabbè, adesso vediamo, da lunedì dovrebbe partire la situazione, speriamo che mi chiamino. Adesso basta, oggi siete tutto, ma io mi cerco casa. E faccio un bel lavoro. Ah, cioè, con l'acqua, con me, forse non mi metto.